La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Quella di oggi è la storia della più grande étoile al mondo, Carla Fracci. La prima étoile che rompe il più grande tabù per una danzatrice di classica e sceglie di avere un figlio. Forse è questa la tappa più significativa della sua vita e che ancora oggi ha un sapore autentico. Ma credo che questa è una cosa naturale per una donna, non siamo nati per... Poi, insomma... Però alcune donne rinunciano. Sì, c'è stato un periodo che era quasi di moda, diciamo, il periodo di Aguilesche, le ballerine erano un po' come le vestali intoccabili e così. Era un po' così questo dedicarsi esclusivamente alla danza. Ma penso che non va dimenticato che appunto siamo degli esseri umani e che questi sentimenti che poi tu hai avendo un figlio e adesso avendo dei nipoti sono delle ricchezze importanti, vere, che ti danno poi la forza per continuare, e questi sono gli aiuti veri. Poi il successo, le cose si racconta, sono cose bellissime, importanti, che rimangono indelebili. È bello aver avuto queste esperienze, ma poi è il futuro quello che conta. La scelta della Fracci di avere un figlio segna la prima volta nella vita di molte altre ballerine classiche. Fino a poco prima, come dirà un anonimo scrittore milanese, le ballerine erano solo della Scala e potevano guardare la città da lassù, dal timpano del Piermarini e le vetrate della Sala Trieste. In primavera si affacciavano, belle e irraggiungibili, simbolo di una città che correva indaffarata dietro il suo boom. Tu t'adora e vicinina, ti te domine Milano. Carla Fracci non è la ragazzina bene, pronta a rompere qualsiasi tabù per noia. Carla Fracci è figlia di un tranviere, Luigi Fracci. Per arrivare dove è arrivata, ha dovuto attraversare anni di fatica. Di quegli anni ricorda la semplicità dei genitori e un certo vivere milanese molto più discreto e concreto. Io devo dire, i miei genitori, forse anche io come carattere, non è che raccontassi molto e così, insomma, si parlava, si discuteva, però loro non hanno molto interferito nel mio lavoro, nella mia carriera, mi hanno solo indirizzato e consigliato che bisogna essere onesti anche con se stessi e che comunque sia, se si arriva a un obiettivo che tu ti sei posta, ecco, lo devi solo esclusivamente al tuo lavoro, il tuo impegno, la tua dedizione, ecco. E questo devo dire che è stata una cosa che mi ha seguito nella vita, questo consiglio, e per cui, insomma, sono molto grata ai miei genitori. Forse è solo un gioco, forse è un po' di più, e quanta timidezza al primo incontro, e che fortuna, la nebbia che ora scende piano piano. Vi prego, non toccatemi. Le bambine che volevano danzare alla scuola della Scala si chiamavano Spinazzit. Carla Fracci fu presa quasi in extremis, aveva 9 anni. Prende anche a questa, concesse la allora direttrice Mazzucchelli, laga un bel facin. Il mondo dei parrucchieri è invece in subbuglio. Carla Fracci entra alla Scala, però il suo sogno è quello di vivere libera, in campagna, coi nonni, e poi da grande fare la parrucchiera, a Milano. Nella scuola della Scala la bambina ha paura e in fondo la danza non l'ama neppure così tanto. È solo la semplicità di vivere la vita giorno dopo giorno che fa andare avanti la bambina. La cosa è che è molto difficile ora raccontarsi, ma io ho cominciato come danzatrice, come spina sit, insomma, come nella scuola di ballo del Teatro La Scala, senza essere stata veramente una mia scelta. Per cui è un coinvolgimento che ho avuto via via, di capire cosa fosse la danza, perché non ero completamente ignara di quello che fosse il teatro e tutto quello che è il teatro, danza, eccetera, non lo conoscevo. Per cui è stato un cammino anche faticoso per quando mi sono trovata a una sbarra, perché pensavo di andare a ballare il tango e il valzer come facevo con papà, piccola, dove era un po' così l'attrazione delle persone che mi guardavano, perché era un frugoletto che si muoveva e seguiva la danza, seguiva la musica in modo incredibile, per cui una volta che tu hai una poi entrata in un mondo sconosciuto e che poi hai delle ispirazione, poi sono veramente le scelte, perché come scelta di partenza non lo è stato, però poi è stata una scelta quando ho visto una danzatrice come Margot Fonteyn nella Bella Addormentata. Io ero una comparsa, insomma, ero uno dei bambini col mandolino che accoglieva Aurora, che è il ruolo della Bella Addormentata, che era Margot Fonteyn. Per cui quella è stata un po' l'ispirazione vera e la scelta di lavorare e di arrivare a essere come lei, capito? Come fanno i bambini, insomma. La prima volta di Carla Fracci, quella scelta che irrompe nella vita di una persona e la porta lontano, la obbliga a cambiare e crescere, è ancora molto lontana. Carla è entrata per caso alla Scala, ha appena deciso di seguire il sogno di danzare dando il meglio. Ha 10 anni e nulla ancora è definito. Eppure, nella vita della bambina irrompe una donna, Margot Fonteyn, e un étoile che di Carla farà la sua bambina, la figlia mai avuta. In fondo, questa prima volta della Fracci ruota tutto attorno a questo, a maternità mancate, a generosità profonde, a vite trasgressive nascoste tra tutù e scarpette. E questa donna mi ha seguito per tutta la mia carriera, sempre con una presenza materna, direi, cioè, perché lei mi diceva: you are my daughter, sei mia figlia. Lei aveva visto un talento e poi è stata veramente la madre in una Romeo e Giulietta. Lei è stata Donna Capuletti quando io facevo poi ancora Giulietta. E quello è stato sicuramente un momento molto forte per lei, molto emozionante. Lei era straordinaria, perché poi Romeo e Giulietta si è fatta al Metropolitan, e lei era una donna incredibile. Incredibile, veniva sempre prima dello spettacolo a incoraggiarmi, prima di andare in scena aveva sempre questa parola buona, questo conforto, insomma, di avere un appoggio, no? Sono queste cose che sono importantissime, ecco. La prima volta. Sono gli anni Ottanta, al Metropolitan di New York va in scena Romeo e Giulietta. Margot Fonteyn sarà Madonna Capuletti, la Fracci Giulietta. Sarà la danza più emozionante e forte. Il pubblico andrà in delirio, dietro a quei corpi, sulle punte, sfilano i sogni, la bontà, l'amicizia. Carla, la ragazzina che da grande avrebbe voluto fare la parrucchiera, ora danza al fianco del suo idolo. Ed è lì, in quell'istante, racconteranno i critici, che nascerà la stella. Io ho un curriculum, ce l'ho, cioè tipo nel 90 ho fatto il karaoke, nel 91 ho fatto il karaoke, poi ho fatto il festival del Super Bowl, andato al festival di Sanremo. Nel 2002 scrivo: ha ballato con Carla Fracci. Ce lo metto, dove mi presento, dico: oh. Viva la Rai! Se starai buono il tuo mazzinga vedrai, Così Fiorello, ospitando l'Étoile Carla Fracci in TV. Non era la prima volta che la danzatrice entrava nelle case degli italiani, partecipando a trasmissioni televisive. E con la Rai è sempre festa, viva la Rai, coi capoccioni e gli operai. Carla Fracci è un simbolo ed è anche la prima danzatrice classica a infrangere numerosi tabù. Sarà la prima a lasciare la Scala, la prima a scegliere di ballare in televisione. Memorabile lo spettacolo Scarpette Rosa del 1967. In studio, in conduzione, c'erano Carla Fracci e Mina. Perché non porto la minigonna? Senza portare le minigonne, pare più duro e parasciò. Ma sarà la volta in cui la Fracci annuncerà di aspettare un figlio che si infrangerà il più grande dei tabù. Perché Carla Fracci non disse faccio un figlio e mi ritiro, disse faccio un figlio e danzerò ancora meglio. Per chi conosceva la Carlina, la figlia del tranviere, esile e timida, è tutto ancora più difficile da capire. Ma la Carlina è una donna forte, sicura dei passi che fa. Una donna che, come avrà modo di raccontare Luciana Littizzetto, in Che tempo che fa, sarà anche capace di adirarsi fortemente con una forza fisica dirompente. Carla Fracci. Sì, se l'è presa. Non sì. So se hai visto, durante una manifestazione dei lavoratori della lirica, sì. È andata dal sindaco Alemanno, sì. e a momenti gli dà una testata. Ha solo fatto così. Proprio con tutti i capelli sciolti, sembrava un gremlin quando è bagnato. Sì, sì. Avete visto? Era molto arrabbiata. Era molto arrabbiata perché in effetti Gianni sono mesi che lei chiede un colloquio e lui non la riceve. Allora lei ha tirato fuori le unghie come un gatto soriano, solo che invece di giocare col gomitolo ha giocato con le balle del sindaco. Però tu non te la immagini la Fracci incazzata. Cioè, è strano, fa impressione. Però fuori dal palco uno può essere, no? Carla Fracci, la donna che ha danzato in tutto il mondo, l'Étoile più famosa, la donna che ancora oggi viene guardata come un mito da coloro che iniziano a muovere i primi passi nella classica, si trova con le spalle al muro in un paese, l'Italia, che dirà lei, la amareggia. L'Italia mi vuole anche bene, ma solo che sono momenti un po' strani. L'hanno amareggiata un po'? Sì, molto. Con personaggi molto strani. Amareggiata, certo. Comunque... Carla Fracci è amareggiata. La danza, l'opera, le scuole di danza classica storiche in Italia vengono saccheggiate, impoverite. I ragazzi vanno all'estero, si lasciano alle spalle le macerie di un paese che non vuole investire sulla cultura. In questo momento è un silenzio totale e direi che è incomprensibile. Però io penso al futuro, ai giovani, che cosa sarà di loro, perché... Il lavoro poi viene a mancare e bisognerebbe costruire soltanto se hanno tolto le compagnie nei vari teatri, allora bisognerebbe, come io dico ormai da tanti anni, di avere una compagnia nazionale, perché accogliere le compagnie dall'estero va benissimo, però poi ci vuole lo scambio. Italia che va all'estero e come loro vengono qua, insomma, accolti con un grande, giustamente, perché sono sempre delle compagnie o danzatrici, come io sono stata all'estero, voglio dire, accolta con questa grande stima, veramente affrontando le più grandi compagnie del mondo, insomma, da Cape Town, voglio dire, all'Australia, al Cuba, l'America, poi insomma, dove sono stata con l'American Ballet Theatre per più di 10 anni, insomma, ospite, per cui però bisognerebbe fare costruire qui in Italia, invece si va un po' impoverendo, cosa che dispiace, perché invece le scuole fioriscono, le scuole private fioriscono, per cui non si può dire che non ci sono i ragazzi o ragazze che si avvicinano alla danza con in questo poi entusiasmo, perché poi come sono accolta anche, devo dire, con un grande riconoscimento, insomma, Io penso quello che può essere il futuro loro. Beh, naturalmente anche quello che può essere il mio, perché io ho tanto da dire ancora a lavorare con loro, con i giovani, il futuro è loro, per cui è quasi un dovere, un quasi come dire un must, insomma, no? Di lavorare e trasmettere a loro tutto quello che tu hai avuto nella tua esperienza, come giustamente hanno sempre fatto, anche in Italia si faceva, abbiamo avuto delle grandi ballerine nel passato che poi sono stati direttori, che sono stati maestri, che sono stati, io ho avuto una maestra italiana, ho iniziato con Edda Martignoni, che era una prima ballerina Teatro alla Scala, che poi era la mia maestra, e poi la signora Mazzucchelli, Torina Mazzucchelli, che era direttrice del teatro, della compagnia del Teatro alla Scala, e così, è una ruota, insomma, praticamente, molto semplicemente. Ecco, qui viene a mancare questo, capito? E allora i talenti che ci sono poi devono emigrare, e questo è un dispiacere. Come del resto in vari settori, nella ricerca, le cose che devono andare all'estero, e questo è un dolore, ecco. Ma insomma, comunque le cose forse cambieranno, c'è la speranza. Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà. Quella di Carla Fracci è la storia di una bambina che per caso si ritrova nella più importante scuola di danza. E lì, sognando di scappare per fare la parrucchiera, si muove, cresce, impara, accetta le regole e poi le rompe, una dopo l'altra, quasi tutte. Carla Fracci è ancora oggi l'étoile più famosa al mondo. Che cosa resta di tutta una vita passata sul palco? Il figlio, i nipoti e il marito, dirà lei. Lei che ha danzato in tutto il mondo, alla fine è sempre tornata a casa. In fondo, la sua prima volta è iniziata proprio quando ha scelto d'essere se stessa. I maestri comunque sono la cosa più importante, ma poi è il tuo modo di essere, certo, di interpretare, di la tua sensibilità, di interpretare la musica. E io sono stata, direi, molto fortunata, perché ho incontrato persone straordinarie, come coreografi, da John Cranco, Macmillan, Anthony Tudor, Butler, Glenn Tetley, insomma posso fare un elenco, capito? E questo chiaramente è fondamentale, ma poi oltre a questi coreografi anche delle persone, degli artisti, delle persone che ti hanno ispirato, Montale che ha dedicato a me una poesia, artisti del cinema, registi, Edoardo De Filippo, De Sica, Visconti, che mi voleva sempre, chiamava la Fraccina. Insomma, ecco, questo è, facciamo un percorso ritroso, voglio dire, di vita bella, dedicata a un lavoro con onestà, con lealtà e con grande anche volontà di lavorare con i giovani e trasmettere tutto quello che può essere stato la mia modo di esprimermi anche nei vari balletti, il pensiero, e spiegare a loro che non ci sono solo le gambe, che anche quello, voglio dire, la tecnica viene assimilata con il nostro lavoro quotidiano, con le prove, con le cose, però poi c'è qualcosa in più, cioè il cervello e il pensiero che è dentro di noi affrontando ogni ruolo. Chiaramente non abbiamo la parola, ma abbiamo il corpo e una testa che deve funzionare con uno stile diverso, perché questo è da non dimenticare, perché ogni balletto, tu non sei Carla Fracci, ma ogni balletto tu devi entrare anche stilisticamente, anche emotivamente, in ogni personaggio, che sia drammatico, sia romantico, o classico, non so, così c'è uno stile completamente diverso. Questo non viene delle volte capito e non sei neanche una macchina, perché non deve essere routine, ma deve essere i ruoli sentiti, perché questo è un trasmettere al pubblico anche l'emozione che tu provi in scena. La prima volta termina qui. Ci ritroviamo sul sito di Radio 24, lì potete riascoltare questa ed altre puntate. L'indirizzo per scriverci è invece laprimavolta@radio24.it. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli.